tutto di corsa questa mattina sugli 87-900, anche perché sono tante le cose, insomma, da approfondire. Nel frattempo ribadiamo che nei prossimi minuti, insomma, effettueremo anche il collegamento con la piazza, con il corteo che si è mosso alla volta dell'Eur. Però, insomma, noi questa mattina parliamo anche di una assemblea che si terrà domani all'Università La Sapienza, un'assemblea studenti e lavoratori della Sapienza, che si terrà al Dipartimento di Geologia in mattinata alle ore 11:30. Un'assemblea per fare il punto della situazione su il nuovo modello contrattuale, insomma, che è stato riservato per gli amministrativi dell'università, rispetto al quale e per opporsi al quale vi sono argomenti che possono costituire sicuramente un ponte per unire studenti e lavoratori. Adesso spiegheremo meglio i motivi che rendono possibile questa unificazione nella concreta realtà, diciamo, delle condizioni di lavoro per quanto riguarda i lavoratori, di studio, formazione e riguardo chiaramente un accesso più largo ai servizi che compongono il cosiddetto diritto allo studio per quanto riguarda gli studenti. Un ponte che, diciamo, è stato lanciato, suo malgrado, immaginiamo, dall'intervento sicuramente intempestivo di Frati, che in agosto, insomma, nel silenzio più totale, quando l'università dormiva sonni tranquilli, possiamo dire, ha introdotto lo statuto speciale che recepisce da una parte alcuni punti salienti della riforma Gelmini, dall'altra invece introduce quelle regole che serviranno a far adeguare il bilancio dell'Ateneo alla cosiddetta legge Brunetta. Intempestivo innanzitutto perché questo provvedimento, qualora ve ne fosse stato il bisogno, ammesso e non concesso, insomma, che questo provvedimento possa servire a ridurre gli sprechi e, diciamo, a riconsegnare il bilancio della Sapienza a cifre, diciamo così, accettabili, ammesso e non concesso che questo debba essere fatto così con queste misure, ecco, questo tipo di misure comunque le si aspettava per il 2013, in questo caso sono state anticipate di un paio d'anni. Attraverso il nuovo statuto Frati comprime di grosso le condizioni dei lavoratori amministrativi della Sapienza, perché introduce appunto un contratto che prevederà minori soldi in busta paga, ma anche, diciamo, la contrazione di alcune indennità che fino a oggi i lavoratori godevano pienamente, quindi la malattia, ma avrà anche effetti sulle trattenute che poi si accumulano rispetto alla previdenza. Insomma, va a intaccare tanti di quei diritti sacrosanti che fino adesso i lavoratori avevano avuto. In particolare poi ci sono delle categorie che risentiranno più di altre di queste novità. Dal punto di vista degli studenti, giusto solo per introdurre uno degli argomenti, insomma, lo statuto Frati introduce appunto la famosa possibilità di aumentare il peso dei privati dentro i consigli delle amministrazioni delle università. Oggi parliamo di questo perché domani c'è questa importante assemblea. Abbiamo qui un altro compagno della nostra redazione quindi, insomma, a lui cedo la parola per introdurre l'assemblea di domani. Bene, ciao a tutti. Intanto, come diceva bene, insomma, Luciano prima, adesso ci troviamo ad affrontare la fase di attuazione sia della riforma Gelmini sia della legge Brunetta in università. E fra l'altro faccio un inciso rispetto alla sapienza, come Luciano accennava allo Statuto Frati. Lo Statuto Frati è entrato in vigore ad agosto, ma ha avuto una sua fase di discussione, diciamo, prima naturalmente di agosto, eccetera eccetera, da quando la Sapienza era stata esclusa dalla graduatoria per l'accesso ai finanziamenti ordinari massimi, perché non raggiungeva i punteggi decisi dall'indice che aveva fatto la Gelmini rispetto alla competenza universitaria, insomma. E rispetto a questo c'è da dire che, insomma, cioè lo Statuto Frati è stato politicamente, diciamo, approvato ufficialmente per attuare la sperimentazione della riforma Gelmini, in cambio poi dell'accesso ai finanziamenti ordinari. Questo, fra l'altro, lo Statuto Frati ha approvato una serie di modifiche che neanche combaciano con quello che è la vera riforma Gelmini, quindi si dovrà comunque fare da qui a breve una modifica dello Statuto Frati. Lo Statuto Frati naturalmente appunto precede appunto queste due riforme, la legge Brunetta e la riforma Gelmini, ma in tutte le università italiane, da quando è stata approvata la riforma Gelmini, insomma, verranno attuate una serie di modifiche sostanziali e radicali all'interno dell'università. Quindi, insomma, quello che stiamo facendo noi oggi alla Sapienza verrà sicuramente, si spera che verrà sicuramente fatto anche dagli altri studenti. Comunque le riforme che stanno, i cambiamenti sostanziali che ha oggi in università la Sapienza, le avranno anche le altre università. Attraverso l'autonomia che si concede all'università, i rettori e i direttori generali amministrativi, che avranno più potere, saranno quelli che in maniera autonoma ed indipendente, in teoria, andranno a calibrare le linee guida della legge Gelmini e della riforma Brunetta a seconda delle università, a seconda delle loro problematiche. Naturalmente quello là sarà il passepartout per tutta una serie di attacchi ai diritti degli studenti e ai diritti dei lavoratori, come abbiamo sempre detto durante, insomma, il movimento scorso. Detto questo, l'ultima cosa è invece cercare di fare capire che questo tipo di assemblea va in continuità con una serie, sia col movimento studentesco stesso e anche con gli appuntamenti che ci siamo dati il mese scorso. Ricordiamo fra tutti l'assemblea fra studenti e lavoratori che si è tenuta a Matematica, in cui c'è stata una forte affluenza e si è comunque evinto una voglia di partecipazione, di alleanza fra lavoratori e studenti, che noi stiamo cercando di cominciare a sedimentare attraverso questa assemblea, nel modo particolare per gli studenti e lavoratori della Sapienza stessa, perché comunque la parola d'ordine adesso è il blocco dell'attuazione della riforma Gelmini, e in questo caso va di pari passo, perché la riforma Gelmini è comunque legata alla riforma Brunetta per quanto riguarda l'università, e quindi, insomma, la lotta politica da questo punto di vista prende piede rispetto a questa cosa qua. Noi Allora, sentiremo tra pochissimo, sì, i soggetti coinvolti, insomma, in tutta questa vicenda, quindi studenti e lavoratori. riprendiamo la linea per riprendere un po' le fila del discorso che stavamo cercando di fare a proposito dell'assemblea che domani coinvolgerà studenti e lavoratori all'Università La Sapienza di Roma, ore 11:30, Dipartimento di Geologia per l'Unità delle Lotte. Dunque, siamo in attesa di sentire un compagno che ci parlerà in modo più dettagliato della situazione dei lavoratori e delle lavoratrici dell'università e delle ricadute che avrà lo statuto Frati sulla loro situazione e soprattutto sulla loro condizione contrattuale, dato che, come ricordavamo, questo statuto ha introdotto il cosiddetto contratto integrativo che elimina una quota di salario importante, cioè il cosiddetto salario accessorio, con conseguenze pesanti e dal punto di vista proprio del salario che finisce nelle tasche dei lavoratori e poi dal punto di vista anche di della compressione, diciamo, e della decurtazione, o meglio, di malattia dei soldi che sono accantonati, insomma, per formare la pensione. È importante però anche, in attesa appunto di sentire Giacomo che interverrà su questo, è importante dire anche quello che sta succedendo nell'università e dei tentativi che continuano per cercare di fermare la riforma Gelmini, che già insomma è stata approvata. Poi si è detto che alcune possibilità di azione potevano risiedere nel lungo iter di approvazione dei cosiddetti decreti attuativi della riforma. Ci sono però anche altre opzioni in campo. Ecco, mi sembra che però molti, cioè soprattutto le strutture che poi formano di solito, diciamo, i parlamentini, insomma, dentro l'università, che stiano puntando fin troppo sul rafforzamento delle rappresentanze studentesche. Insomma, ecco, intanto ci sta però il compagno Giacomo, insomma, che interviene, quindi ecco, alziamo subito il cursore, così lo facciamo intervenire. Chiudi. Ecco, quindi Giacomo, ci sei? Sì, sono eccomi, qua. Eccomi, dunque, allora niente, facciamo dietro front, perché non sentendoti stavamo iniziando anche a parlare di ciò che attiene, insomma, sì, a la legge Gelmini e a quello, insomma, che stanno facendo gli studenti in questo momento così un po' transitorio, insomma, perché ci si sta riorganizzando per cercare di ostacolare l'approvazione di una legge già passata, ma rispetto alla quale vi sono ancora in ballo i decreti attuativi. Ritornando invece alla questione riguardanti il contratto integrativo che introduce, insomma, lo statuto Frati, beh, insomma, noi abbiamo cercato di anticiparne alcuni contenuti, sì. Francamente, insomma, sono davvero pesanti e quindi intanto la domanda che ti faccio è, visto che lo abbiamo già detto, come mai tra tutte le categorie ce n'è poi una in particolare, insomma, che risentirà in modo più pesante delle altre le condizioni del nuovo contratto? E poi a che punto siete dal punto di vista dell'organizzazione, insomma, delle forze sociali? Certo. Devo dire la verità, insomma, non si sente che ci sia grosso movimento alla Sapienza, ma magari, insomma, tu mi contraddirai perché hai sicuramente più informazioni di me. Sì, ma guarda, innanzitutto sì, volevo salutare tutti, appunto sono Giacomo Mondovì, rappresentante eletto all'RSU come rappresentante dei COBAS. Guarda, dunque, allora, una considerazione banale, apparentemente, ma secondo me importante, è quella che comunque sia, ecco, questo percorso che stiamo cominciando tra lavoratori e studenti, io lo ascriverei anche in quel famoso pensiero che era agire localmente pensando globalmente. E perché? Perché adesso concretamente noi stiamo cominciando a toccare con mano gli effetti della legge Gelmini, gli effetti della legge Brunetta e le applicazioni di quello che noi diciamo una zelante amministrazione universitaria della sapienza, che anticipa qualche cosa che poi in realtà a pieno regime dovrebbe, anche nell'idea di chi l'ha perversa, di chi l'ha promulgata, entrare in vigore nel 2013. Quindi un po' abbiamo detto per imbonirsi il palazzo, quell'amministrazione di questa Università della Sapienza sta anticipando un po' i tempi. Diciamo che entrando a rispondere a quelle domande che mi hai fatto, la categoria che verrà più penalizzata a livello di lavoratori è la categoria C, ovvero il contratto dell'università prevede una categoria B che è la più bassa, con varie fasce stipendiali, una categoria C che è diciamo il quadro medio, diciamo la categoria che è riferibile al grado di istruzione del diploma superiore. Poi ci sono le categorie D, E e P che sono quelle riferite ai laureati, con la D che fa parte diciamo dei quadri e l'EP che è una sorta di categoria di predirigenti, poi si passa direttamente al comparto della dirigenza pubblica. È la più penalizzata perché praticamente non arranca ad arrivare a livello stipendiale a quello che precedentemente riusciva a ottenere, ed è anche la più penalizzata da un punto di vista normativo, perché praticamente per in qualche modo avvicinarsi a ciò che prima aveva è sottoposta a una serie di vessazioni e alla parte più brutale tra virgolette della ideologia di Brunetta, cioè quella diciamo della verifica continua sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti, obiettivi che oggi vengono dati come collettivi, ma badate bene che questo obiettivo collettivo in realtà è ancora più perverso dell'obiettivo individuale, perché praticamente il dirigente o il caposettore conferma se l'obiettivo del gruppo è stato raggiunto o meno, ma può praticamente penalizzare tutto il gruppo a causa anche di un solo componente, cioè per esempio il dire guardate che per colpa di Tizio questo gruppo non raggiungerà l'obiettivo e quindi prendetevela con lui se domani in busta paga il giorno dello stipendio avrete 50 euro o rotti in meno. Ecco, capite che c'è proprio produce un criterio di competitività ultra aggressiva. Sì, è una questione veramente devastante oltre che dirompente. Oggi ho ricevuto addirittura una email di una dipendente in cui gli avevano fissato come obiettivo, lei è in servizio presso la facoltà di ingegneria a Civitavecchia, che due giorni a settimana avrebbe dovuto aprire lo sportello a Roma. Cioè, ecco, per capire, noi abbiamo messo proprio evoluzioni psicotiche di dirigenti e capi settori, cioè ha praticamente, se lei nella capoccia di questo dirigente non va a aprire lo sportello a Roma, non solo perde la sua produttività, ma la fa perdere anche ai colleghi. Cioè siamo veramente in una situazione che se non fosse così tragica sarebbe grottesca. Ecco, considerando poi tra l'altro è di oggi anche una lettera, anzi un verbale inviato al rettore, all'amministrazione dei direttori dei dipartimenti, in cui fanno presente che praticamente con questo accordo integrativo loro non sono più in grado di garantire didattica e servizi agli studenti. Quindi diciamo quello che noi diciamo in realtà accade. Per quello che poi riguarda, ecco, quello che tu mi dicevi, non si sente molto, non si vive diciamo così gestione della sapienza, guarda, per quello che riguarda il fronte diciamo dei lavoratori direi che no, anzi che si vive parecchio, ovviamente bisogna andarla a percepire in quei rivoli e in quegli ambienti che non sono propriamente quelli condivisi anche con gli studenti, ma sono quelli diciamo delle segreterie, dei corridoi, delle stanze degli impiegati, ecco, soprattutto per esempio un'altra pazzia è quella che questo accordo integrativo per esempio obbliga tutti i lavoratori a timbrare i 20 minuti di pausa pranzo, cioè dall'inizio alla fine, quindi ci sono queste diciamo così grottesche file di dipendenti che stanno in fila sull'orologio perdendo poi tra l'altro un sacco di tempo, perché se perdono un minuto di meno, settimana un minuto prima, non gli danno il buono pranzo, che sono 10 euro, quindi una parte di stipendio, se timbrano dopo gli tolgono l'orario di lavoro, che se sommiamo 4-5 minuti al giorno, alla fine del mese sono ore insomma di lavorate in più. E certo, la mia domanda chiaramente si rivolgeva a te proprio nell'intento di far emergere, insomma, proprio questi rivoli, no? Che in un modo o nell'altro compongono la vertenzialità, se vogliamo anche un po' nascosta, ma che poi aspetta solo magari momenti migliori, più efficaci per uscire fuori, e speriamo che quello di domani sia il primo di questi. Però Giacomo, ecco, ti volevo anche chiedere, insomma, il vostro lavoro in generale si compone proprio di una forte motivazione e dedizione nei confronti degli studenti, perché insomma in un modo o nell'altro è organizzato proprio in funzione di una migliore organizzazione proprio per della didattica, dei servizi e quant'altro. Quindi già questo, insomma, è chiaramente un primo aspetto che induce a questo incontro lavoratori-studenti. Poi insomma ce ne sono anche degli altri che derivano proprio dall'impostazione dello statuto Frati. Ecco, in questo periodo questo incontro, al di là dei momenti pubblici, no? Vive poi magari anche di singoli rapporti, cioè si sta cercando di tessere questo dialogo che non può che essere produttivo per entrambe le categorie, chiamiamole così, insomma. Certo, guarda, questo dialogo e questi rapporti in realtà, voglio dire, a seconda dei momenti e delle fasi ci sono sempre, anche perché, come dire, il luogo di studio degli studenti è il nostro luogo di lavoro, il nostro luogo di lavoro è il luogo di studio degli studenti, quindi è sul quotidiano ovviamente che questo si sviluppa. È evidente che ci sono molteplici aspetti, cioè nel senso che ci può anche essere, tra virgolette, una incomprensione, no? Da parte degli studenti di alcune volte, insomma, immaginiamoci le code dei segreti nelle segreterie, eccetera, eccetera. Io credo che, tra l'altro, appunto, il dialogo e la comunicazione proprio degli aspetti reciproci, cioè, che sta emergendo sempre più, è quello poi fondamentalmente che sul terreno quotidiano, sul terreno, diciamo, tra virgolette, dei non compagni, cioè dello studente comune, del lavoratore comune, no? Colui che praticamente non si approccia a queste problematiche attraverso una consapevolezza maggiore, però ecco, sta maturando proprio un senso di solidarietà reale, cioè nel senso si è innescato, e io penso anche dalla famosa assemblea del 25, dallo sciopero del 28, si è innescato un percorso che, a partire dai consapevoli, diciamo così, dai militanti, sta effettivamente declinandosi, tra virgolette, tra i colleghi, colleghi come lavoratori e colleghi come studenti, e si percepisce proprio, si respira questa evidenza, perché per esempio io e noi, molti di noi nelle assemblee, spesso diciamo il nostro lavoro è un lavoro importante, cioè noi siamo coloro, i lavoratori dell'università, che devono declinare in senso concreto quello che è un diritto costituzionale, quello allo studio, cioè il diritto è enunciato, ma siamo noi che dobbiamo contribuire a far sì che sia esigibile, e questa esigenza nei confronti dei lavoratori, dagli studenti, ora è appunto centrata, cioè nel senso che un diritto fondamentale, quello allo studio, sta vedendo concretizzarsi un fronte di lotta molto molto coeso, diciamo, tra persone che lo vivono quotidianamente, non più solo tra militanti o consapevoli. Questo mi pare che sia uno degli elementi sostanziali poi per delineare un fronte che porta dei cambiamenti reali, perché la seconda cosa che secondo me è molto importante è che oggi sia il movimento degli studenti che quello dei lavoratori si è uniti insieme, debbono avere la capacità di portare anche dei cambiamenti concreti, no? Cioè noi abbiamo avuto una stagione di lotte molto ampia, molto lunga, molto intensa, molto eroica tra virgolette, però dobbiamo portare a casa anche dei risultati. Senti, ti volevo fare una domanda dal punto di vista sindacale, insomma, in questo caso, andando prima, insomma, il rapporto fra lavoratore e studenti è passato per alcuni settori del movimento studentesco attraverso il rapporto con la CGIL, fra l'altro, FLC e FIOM. E comunque è passato molte volte attraverso le dirigenze, insomma, mentre questo tentativo che stiamo facendo il 24, che abbiamo già fatto il 25 gennaio, parla invece di una complessità diritti del mondo del lavoro, dei sigli sindacali, comunque va anche, cioè che deve naturalmente andare oltre le dirigenze sindacali per confrontarsi con i lavoratori che poi stanno veramente nei luoghi di lavoro. E in questo caso, rispetto all'avvertenza, alla sapienza e alla firma del contratto integrativo aziendale, e la CGIL invece questo caso sta dall'altra parte, perché comunque la CGIL ha firmato insieme a CISL e UIL il contratto integrativo aziendale, che comporta tutte le cose che abbiamo accennato lungo questa trasmissione. In questo caso, fra l'altro, si nota pure la schizofrenia della CGIL, che a livello nazionale non firma il protocollo d'intesa sul pubblico impiego rispetto a CISL e UIL, e che invece in azienda, cioè con i contratti di secondo livello, lo va a firmare. Quindi questo qua evidenzia pure un tipo di rapporto da mantenere con la CGIL e comunque e con i sindacati confederali. Sì, ma posso? Sì, vai. Guarda, tra l'altro, ecco, poi appunto nelle riunioni, negli incontri che abbiamo avuto con gli studenti, ci chiedevano appunto il tipo di rapporto con la CGIL, con la FIOM. Io ci terrei a fare una distinzione abbastanza netta, cioè la FIOM è una cosa, è una federazione della CGIL sicuramente, però è quella parte, quella federazione che credo abbia colto il senso profondo del fatto che sindacato e politica in realtà non sono disgiunti, e che un'organizzazione deve occuparsi di entrambe le cose, e immagino che lo stiano facendo per quello che è la loro possibilità, per quello che è la loro visione, diciamo. Per quello che riguarda la CGIL il discorso è un po' diverso, sicuramente è composto da varie componenti, ma è chiaro che un domani, se faccio un esempio molto banale, la CGIL promuovesse uno sciopero che coinvolgesse anche la Sapienza, beh, io credo che sarebbe molto complicato spiegare ai lavoratori per quale motivo dovrebbero partecipare a questo sciopero, visto che il 2 mesi prima hanno firmato qualcosa che normativamente li sta degradando, come dicevamo prima, e che li toglie dalle tasche anche dei soldi. È complesso, perché tra l'altro poi non era neanche qualche cosa che si doveva fare per forza, insomma. È complicato perché credo che sia la stessa complicazione che avrebbero i militanti della FIOM a convincere gli operai di Mirafiori ad aderire a una sciopera della CISL o della UIL, tanto per intendersi, ecco. Va bene. Tra l'altro, insomma, ecco, forse un'ultima battuta possiamo anche dedicarla, Giacomo, all'atteggiamento generale tenuto da Frati e, insomma, delle riforme anche che stanno incidendo notevolmente attraverso grandi disagi, insomma, di ristrutturazione, accorpamento dei vari dipartimenti. Frati, che come tu hai detto si è rivelato più realista del re in questa occasione, sì, insomma, facendo uno statuto in funzione della legge Gelmini prima che venisse approvata. Esatto. Nel frattempo lui comunque tiene ancora saldi in mano i rapporti con la facoltà da cui proviene, nei confronti della quale crediamo tenga un occhio di riguardo. Certo, no? Anche perché se tieni in considerazione che ha accorpato le varie facoltà e invece medicina sono diventate 3, quindi ha triplicato la sua influenza come membro di una facoltà di medicina. Insomma, era proprio lì che volevo arrivare. Anche questa figura, insomma, in effetti stabilisce un trade union più che visibile, insomma, e che può favorire questo incontro, no, tra studenti e lavoratori. Certo. Va bene, allora noi ribadiamo l'appuntamento che di domani pomeriggio alle 11:30. No, di domani mattina, scusa. Sì, alle 11:30 davanti all'istituto, al Dipartimento di Geologia. Se il tempo e i numeri, come immaginiamo, saranno favorevoli, ci sposteremo sulla scalinata del rettorato. Se pioverà, abbiamo comunque alla concessione dell'aula 3 di geologia e svilupperemo lì l'assemblea. Perfetto, grazie allora Giacomo, grazie. Grazie, ciao. E allora, velocemente andiamo a chiudere con questo spazio, brevemente, insomma, magari riepilogando i punti che contraddistinguono l'indizione di questa assemblea. Dario. Vabbè, allora vado a lettura, insomma, in maniera sintetica. Abbiamo, cioè, ricordiamo appunto che il nuovo contratto integrativo aziendale, che poi è incorporato nelle guide dello Statuto Frati, e praticamente va a comportare, insomma, in prima istanza una forte perdita in busta paga per i lavoratori a seconda delle tipologie di orari. Abbiamo ricordato che si parla in media dalle 100 alle 150 euro mensili. Poi l'arbitro dei dirigenti, dei capi struttura, con l'approvazione di parametri di competitività e di premialità individuale e di team, insomma, che vanno ad incidere in maniera arbitrale anche sul salario accessorio. Poi l'uso indiscriminato ed illegittimo degli straordinari. Ricordiamo, insomma, che l'azienda si è arrogata, in questo caso, cioè la Sapienza si è arrogata da parte dei lavoratori l'arbitro rispetto alla chiamata degli straordinari, e cioè questa cosa qua ci ricorda, insomma, quello che è successo pure a Pomigliano e a Mirafiori. Poi lo stravolgimento degli orari di lavoro, con l'impossibilità reale, insomma, del funzionamento di importanti strutture universitarie, e in questo caso si parla addirittura di riduzione di orario, anche dell'apertura delle facoltà. Questo qua si intreccia agli studenti, non solo in maniera teorica e di analisi politica rispetto alla solidarietà di classe, ma si parla proprio della materialità, del vivere oggi in università, e di quelle che possono essere le ricadute anche rispetto all'approvazione della riforma Gelmini, dell'applicazione della riforma Brunetta, quindi con l'obbligatorietà dell'ingresso dei privati alla Sapienza. Si parla di Telethon con a capo Montezemolo, si parla di Unicredit, si parla di Finmeccanica, e questo qua, naturalmente, sappiamo cosa comporterà: finanziamenti naturalmente ad hoc per alcune università e per alcune facoltà e per altre no. E questo qua comporterà sicuramente un aumento delle tasse, quindi uno dei punti che gli studenti rivendicano è appunto l'abbattimento delle tasse universitarie, che ricordiamo che oggi comunque rappresentano solamente il 10% dell'intero bilancio universitario, quindi, insomma, ha una forte ricaduta per i singoli studenti, ma una bassa ricaduta sul bilancio. Quindi ancora oggi una vera università pubblica e gratuita è realmente possibile. Poi l'aumento dei finanziamenti per le borse di studio e per le case dello studente è un altro elemento di piattaforma, e anche se le borse di studio ormai sono diventate, dentro alla logica meritocratica, uno strumento invece di divisione di classe, che dovrà essere sicuramente riformato. E naturalmente c'è anche il problema dello sfruttamento del lavoro studentesco attraverso gli stage che verranno fatti a dei privati, che scaricano i costi di formazione e del lavoro all'università. E poi naturalmente c'è la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro e di studio, l'ultimo purtroppo ricordando la morte del lavoratore tunisino in università. E per arrivare a quali proposte? Uno, naturalmente, l'abbattimento del contratto integrativo aziendale, la riforma dello statuto universitario autonomo, e attraverso cosa? Attraverso comunque la creazione di momenti e luoghi decisionali autonomi. Veramente decisionale significa autonomi e partecipativi, quindi senza i delegati o rappresentanti né dei lavoratori né di studenti, ma assemblee tematiche su dei punti centrali e strutturali della vita universitaria, come il bilancio di Ateneo e la didattica o anche l'edilizia, su cui comunque gli studenti tutti e i lavoratori tutti si possono esprimere per creare veramente delle piattaforme decise dal basso, e che poi il consiglio di amministrazione dovrebbe andare a ratifica invece di modificarli. In questo caso vediamo nella partecipazione, insomma, nei luoghi eccezionali realmente partecipativi e consigliari, uno strumento interno alle singole università che possa realmente incidere poi sulla vita universitaria stessa. Insomma, ricordiamo l'appuntamento: l'Assemblea di Studenti e Lavoratori della Sapienza il 24 di febbraio presso il Dipartimento di Geologia alle ore 11:30.